America 24 di Mario Platero. Flash, questa è la canzone che apre l'album di The Wall, che è stato distribuito il 30 novembre del 1979 dai Pink Floyd con la EMI, grande leggendaria casa di produzione discografica. Perché parto con questa canzone? Perché è uscito un nuovo film, The Wall, questa volta fatto da Roger Waters. Roger Waters, molti di voi lo conosceranno, spero che lo conosciate, perché è un grandissimo artista, da alcuni è considerato il più importante scrittore di versi di canzoni, scrittore di canzoni del nostro tempo, ed è l'autore della musica e di tutte le parole di, appunto, The Wall. The Wall non è solo una canzone, ma sono molte canzoni che raccontano una serie di drammi in cui purtroppo ci dibattevamo allora nel 79, ma continuiamo a dibatterci oggi: drammi di guerre, drammi di massacri, di persecuzioni, di discriminazioni. Purtroppo continuiamo, come sappiamo, a vederle nelle cronache dei nostri giorni, con una differenza: che purtroppo oggi sono molto peggio di quanto non fossero 40 anni fa. Ecco, voglio che nel corso di questa trasmissione ci sia di sottofondo un po' tutta la musica di questo grandissimo disco, di questa grandissima opera, dovrei dire. E le scene del film sono girate in alcuni concerti che Roger Waters ha tenuto in anni recenti con una sua band, e dal punto di vista della rappresentazione della fotografia, il film è straordinario, perché è uno di questi grandi concerti rock con tutti gli effetti speciali del concerto rock portati all'eccesso. Quindi c'è molta musica, c'è molto ritmo, molto colore, molta passione, e soprattutto nel corso del film e nel corso del concerto, perché poi il film è su un concerto, e si vede questo muro, questa wall che viene costruito pezzo per pezzo, enormi mattoni di cartone che chiudono e separano l'orchestra dal pubblico. Ecco, il film alterna le immagini di questi concerti con delle immagini di vita reale, con Roger Waters che viaggia con una sua Bentley per l'Europa alla ricerca di un passato, alla ricerca della ricostruzione di alcuni drammi familiari che lo hanno colpito direttamente. E perché per noi questa cosa è particolarmente importante? Perché, e questo ve lo racconto direttamente, perché ho conosciuto in varie occasioni Roger Waters, e una volta davanti a un drink, mi ricordo proprio l'estate scorsa, una bellissima giornata di prima estate, mi raccontava questa sua esperienza personale, che vi dicevo ci riguarda, perché suo padre è morto ad Anzio nel febbraio del 1944, proprio quando lui era nato da appena 5 mesi, dunque non ha mai conosciuto suo padre. Ma quello che mi raccontava è davvero, devo cercare di trasmettervi questa sensazione di grande commozione, di grande partecipazione di Roger Waters, era anche la storia di suo nonno, perché anche suo nonno George Henry Waters, il padre si chiamava Eric Fletcher Waters, è morto in guerra, ed è morto nella prima guerra mondiale a Calais, quando suo figlio aveva appena 2 anni, e suo figlio era il padre di Roger. Quindi devo dire, è davvero un dramma familiare in questa famiglia, in queste 3 generazioni di uomini, in cui i figli hanno perso il padre in guerra. Roger Waters ha perso suo padre, e suo padre aveva perso a sua volta il padre. Ecco, Waters mi raccontava quando era stato ad Anzio, quando aveva partecipato a una cerimonia commemorativa dedicata appunto al padre, che faceva parte di queste truppe che liberavano l'Italia dai fascisti e dai nazisti, pagando poi questa nostra libertà con la loro vita. Questo per dirvi che si sente molto vicino a noi, molto vicino al nostro paese, e il film va avanti e indietro in questo viaggio in Bentley per l'Europa, passando per la Francia, arrivando a Calais, e per scendere poi per l'Italia ed arrivare fino ad Anzio, dove poi, lungo le sponde del Mediterraneo, con questa musica straordinaria di sottofondo, si chiude anche il film. Ecco, per darvi un'idea dell'ambiente, della La prima di questo film The Wall, vi faccio sentire alcune voci d'ambiente, vi faccio sentire una mia registrazione fatta lì nel locale e poi una breve chiacchierata, un breve saluto con Roger Waters, che mi vede, mi riconosce e mi saluta con grande affetto. Non ve lo traduco, ve la lascio solo come documento di partecipazione diretta a questo straordinario evento. Ebbene, sulla falsariga di darvi un'idea dell'atmosfera impresa diretta di quello che capita a New York o qua in America, sono al party dopo la prima, l'anteprima del film The Wall di Roger Waters. Ci saranno 200-300 persone e il posto è poco lontano dallo Ziegfeld Theater, dove c'è stata la prima sulla 54 fra sesta e settima. Qui siamo sulla settima, è un grande barbecue restaurant place e ci sono attori, ci sono musicisti, ci sono scrittori. È un tipico spaccato di quella che è la New York che si ritrova per celebrare uno dei suoi, perché Roger Waters vive in America, vive a New York, anche se è inglese. We had discussed Anzio at length this past summer, you remember? Yeah, of course I remember. Very well. Good to see you. Yeah, and many congratulations. Thank you. The movie was really terrific. Thank you. But I'd love to do something for the radio program I do about the movie and about Anzio. Well, so I will call you maybe through Peggy. Or it's the director. Oh, great. Peggy. And I'll get a hold of you. Bye. Great, thank you. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su Ameria24.com. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, torniamo all'inizio, cioè a quella che è la canzone più significativa di questa grande opera musicale moderna, Outside the Wall. Ecco, The Wall è il simbolo della parete, il simbolo di questa parete che ci divide, che ci impedisce di fonderci nel multiculturalismo, e questo film di Roger Waters vuole dirci esattamente il contrario, cioè cerchiamo di romperla, questa parete, di guardare fuori dalle pareti che ci separano. Outside the Wall, Roger Waters. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!